12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi proveremo a scoprire la professione di assistente di volo. Cercheremo di farci raccontare dalla nostra ospite Federica cosa vuol dire svolgere questa professione, quali sono i requisiti richiesti e i canali per poter accedere a questa carriera. Quella dell'assistente di volo è una figura professionale che continua ad essere molto richiesta. Visto l'aumentare dei voli internazionali, la proliferazione delle compagnie low cost e la crescente mobilità delle persone. Il lavoro dell'assistente di volo, chiamato spesso hostess per le donne o steward per gli uomini, è sicuramente attraente, soprattutto perché permette di viaggiare e conoscere continuamente luoghi e persone nuove. Principalmente le attività che si devono svolgere riguardano l'assistenza ai passeggeri di un aereo, dal momento dell'imbarco a quello dell'atterraggio e uscita dal velivolo, come far salire a bordo i passeggeri e farli accomodare ai propri posti, fornire ai passeggeri le istruzioni per le emergenze, servire pasti e bevande, assicurarsi costantemente che i passeggeri siano a posto e in caso di bisogno soddisfare le loro necessità. Sembrerebbero attività semplici, ma sono tutte attività rese più complesse dal fatto che il lavoro si svolge in uno spazio molto ristretto e soprattutto in aria. Un bravo assistente di volo deve sapere anche rassicurare i passeggeri in caso di paura o panico, fornire loro assistenza nel caso non si sentano bene, preoccuparsi che i passeggeri tengano le cinture allacciate quando necessario e che mantengano una buona condotta a bordo dell'aereo. Di sicuro, quindi, per svolgere questa professione bisogna essere ben preparati. I requisiti richiesti per svolgere questa professione solitamente sono, per quanto riguarda gli aspetti fisici, una bella presenza, un'altezza minima di 1,65 m ad esempio per le donne o 1,70 m per gli uomini, addirittura l'assenza di piercing o tatuaggi visibili e una vista di 10 decimi. Per quanto riguarda invece la formazione, bisogna conoscere bene l'inglese e almeno un'altra lingua straniera, essere in possesso di un diploma di scuola superiore e superare l'esame di abilitazione tecnica presso l'ente nazionale aviazione civile ENAC. Una volta passato l'esame, accumulato un centinaio di ore di volo come pratica, si ottiene appunto la certificazione di assistenti di volo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per poter esercitare, inoltre, bisogna poi iscriversi all'albo professionale del personale di volo. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E dopo aver dato qualche informazione generale, proviamo a scoprire cosa vuol dire veramente essere un assistente di volo insieme alla nostra ospite. Federica, benvenuta a 12 minuti. Ciao. Federica, cosa vuol dire essere un assistente di volo? Vuol dire tante cose. Vuol dire essere una persona che ama stare con la gente, che ama viaggiare, vuol dire essere una persona che non vuole avere un lavoro seduta in un ufficio davanti a un computer, ma essere una persona dinamica, e vuol dire tante cose, insomma. Ecco, Federica, per accedere a questa professione, a livello formativo, qual è un po' il percorso da intraprendere? Allora, non è necessario essere laureati o avere una particolare laurea. Diciamo, basta rivolgersi alle compagnie aeree e una volta contattata la compagnia aerea, poi il percorso è diverso, varia un po' da compagnia a compagnia, ma comunque generalmente hai bisogno di fare un corso base, per cui un corso formativo, per cui gli unici requisiti che la compagnia richiede sicuramente la conoscenza della lingua inglese, anche perché hai a che fare con piloti internazionali, per cui la comunicazione è fondamentale, e per cui sicuramente l'inglese, e bisogna saper nuotare. Bisogna saper nuotare per poi gestire, immagino, eventuali situazioni di ammaraggi, per cui sì, se anche si sa nuotare, nel senso che uno dice sì, vado in spiaggia, sto a galla, non è quello che voglio, no? Per cui ma io ad esempio ho dovuto fare un corso di nuoto perché non ero... Ecco, infatti proprio questo è quello che io ti cioè, nel senso loro proprio, cioè non è che basta che tu dica sì, so nuotare, ma proprio vanno a verificare, cioè magari vanno a un verificare, corso, un esame. Sì, esatto, durante proprio il corso, una volta, te lo chiedono durante la selezione, tutti ovviamente rispondono sì, sappiamo nuotare, poi però durante il corso c'è una giornata in cui loro ti buttano in piscina e almeno a me è successo così e poi se passi questa fase della piscina durante il corso andrai in centri specializzati dove praticamente andrai ad imparare a soccorrere una persona in mare, per cui sì, a, non so, a trascinarlo, certo, a quindi proprio a fare il salvataggio, esatto. E comunque il famoso anche salto dal trampolino per vedere se tu sei in grado di buttarti fuori dall'aereo praticamente in una situazione del genere. Ecco Federica, prima di continuare a scoprire come poter intraprendere la carriera di assistente di volo, quali sono appunto le competenze richieste, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Certo. Parole come rose per farmi innamorare, puoi respirarle piano quando sto con te, brillanti come stelle, carta di caramelle, il giorno che da due diventeremo tre. Può aprire il cielo, chiuderlo. Ogni bugia nasconde un po' di verità. Poi dimmi che mi ami, gridare che mi ami. Ma se la musica diventerà silenzio, scegli le parole che non fanno troppo male. Quando te ne vai, te ne vai, te ne vai. Scegli le parole che ti salvano dal cuore. Quando te ne vai, tornare, bambini in un cortile, puoi scriverle su un muro e non scordarle mai, leggere come neve, dure come pietre, un sorso d'acqua fresca quando sete, stai con me, anche quando non ci sei. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi stiamo andando alla scoperta della professione di assistente di volo e nella prima parte della puntata, insieme alla nostra ospite Federica, abbiamo provato a capire un po' quali sono le competenze richieste per intraprendere questa professione. Federica, appunto, prima ci raccontavi un po' della richiesta della lingua, delle capacità appunto di saper nuotare, quindi per saper affrontare eventuali, insomma, imprevisti e ammaraggi. Federica, ma per arrivare a svolgere questa professione, quali sono i canali da percorrere, ovvero come bisogna muoversi per trovare impiego in questo settore? La cosa fondamentale è quella di contattare direttamente la compagnia aerea. La compagnia aerea poi ti contatterà per la selezione, ti forma, per cui si farà un corso base dove appunto verificheranno la tua capacità di parlare la lingua. Il corso sarà quasi tutto principalmente su manuali in inglese, per cui bisogna sapere l'inglese, e anche la capacità del teamwork, per cui se tu sei in grado di fare un lavoro di squadra ottimale, e poi una volta spegnere i fuochi, insomma ci sono vari step, e poi la compagnia ti porta a Roma a fare l'esame di stato, dove praticamente ti rilasciano un brevetto internazionale e tu puoi lavorare in qualsiasi compagnia. All'estero funziona diversamente: in Italia c'è bisogno del brevetto, all'estero invece è la compagnia stessa che ti prende, cioè ti assume, ti forma e puoi volare, però con un brevetto della compagnia, non so, low cost estera, non puoi venire assunto in una compagnia italiana. In Italia bisogna fare questo percorso. Cioè, nel senso, quindi tu puoi rivolgerti direttamente alle compagnie italiane, quindi poi il percorso è dopo il corso di formazione, appunto c'è questo esame di stato, questa abilitazione, mentre se vai all'estero, quindi è direttamente la compagnia. Sì, ti rivolge alla compagnia, ma la compagnia stessa che ti rilascia il brevetto. Per cui se dopo cambi sempre, non so, vai in Irlanda, fai il corso in Irlanda, poi ti trasferisci in Inghilterra rifarai il corso per la compagnia. Ho capito, mentre quindi poi se si varia. È un certificato unico che vale per tutte. Ecco Federica, un'ultima domanda prima di salutarci. Ti ricordi la tua prima esperienza in cabina? Com'è stata la sensazione? Bellissima. Emozionante, immagino. Sì. Federica, allora io ti ringrazio per essere stata qui con noi a 12 minuti e ovviamente per le informazioni e i consigli che ci hai dato. Grazie a voi. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi volesse intraprendere la carriera di assistente di volo, un sito molto utile per informazioni sul lavoro e anche su questioni contrattuali e sindacali è www.assistentidivolo.org, pagina web delle hostess e degli steward di Alitalia. Per accedere alla professione bisogna partecipare alle selezioni indette dalle compagnie aeree, come ci diceva anche la nostra ospite, e per avere un elenco completo di quali sono potete collegarvi al sito www.aeroporti.com e verificare le date di recruiting day che vengono organizzate in tutta Italia dalle differenti compagnie italiane e straniere. Fly Hostess è un'azienda dedicata alla selezione, formazione e certificazione di aspiranti assistenti di volo, autorizzata dalle autorità europee, che offre la possibilità di frequentare i corsi base in centri aeronautici in Spagna ed in Inghilterra, e che propone alunni certificati direttamente alle compagnie aeree internazionali. Potete trovare tutte le informazioni sul sito www.flyhostess.com. Vi segnalo infine il sito dell'Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo, che è www.anpav.com, in cui trovare informazioni inerenti alla professione da tutti i punti di vista. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.